Buonasera, buona domenica e ben ritrovati sulle Stockmore Rock. Vado direttamente al punto perché sarà una domenica molto impegnativa per quanto mi riguarda la mia parte. A distanza di 2 giorni su Radio Città Fujiko e a distanza di 4 anni sulle Stockmore Rock, torna la risposta italiana a I'm First and the Gimme Gimmes, o per lo specifico adesso Spike and the Gimme Gimmes. Quindi la formazione al completo con l'uscita del nuovo album Pompa il Volume, un gruppo che è a cover al quadrato, perché oltre le canzoni fanno anche le copertine un po' rivisitate, così per modo di dire. Sono qui con me i birilli più o meno dei Gomma Gommas. Ciao ragazzi, come state? Bene, bene. Uno è andato. Benissimo. Già. Uno era caduto. Ah no, ok, benissimo. Lo spero. Tutto bene? Sì, sì, tutto bene, tutto bene. Mi fa piacere. Allora, come dicevo, poco tempo fa eravate qui sulla Gitta Fujiko per un'altra intervista e mi fa piacere che siate ritornati anche con me qui sulle Stormo Rock, che ci eravamo sentiti appunto per E vendero fuori i lupi, l'altro album del 2022. Scusate se rido, però, perché avendoli anche in diretta su Instagram è molto divertente vederli, e quindi se volete farvi la doppia, ascoltare sia la radio che guardarveli anche in diretta, sarà molto, molto simpatica la questione. Quindi quest'oretta se la passeremo con loro ad ascoltarci il nuovo album Pompa il Volume. Quindi io, prima di andare a parlare effettivamente dell'album, ho una domanda introduttiva, quindi siete in quattro, quindi magari cerchiamo di fare il sunto un po' su tutto. Immagino un po' la risposta quale possa essere, perché avendo fatto come cover Pump Up the Volume di NoFX, quindi immagino che sarete anche voi fan, ma mi collego a questo dicendo, immagino che sapete anche voi che nel 2024 si sono sciolti NoFX. Cosa sono per voi NoFX? Chi sono NoFX? Io vado avanti. Non so, poi forse si sono sciolti, sono un ghiacciolo, cos'era? Non so. Mamma mia, quanta era brutta. Questa è vecchissima, vabbè, no, però, Brutta. Denota la nostra età, questa. No, vabbè. Siamo grandi fan, grandi siamo fan. Grandi fan, in effetti siamo molto dispiaciuti che si sono sciolti. Ok. Però se mancava il divertimento è giusto. Ah sì, infatti è stato spiegato un po' in 40 Years of Fucked Up, qualche screzio negli ultimi anni. Ma c'eravate a Milano al final show, una delle due date? Non ce l'avete fatta? No, non ce l'abbiamo fatta. Vabbè. Costava troppo. Effettivamente non era buon mercato, non era buon mercato. E rientriamo effettivamente con i Gomma Gommas a parlare di questo Pompa al Volume. Allora, se non ho visto male, era un discorso, un tributo agli anni 80 questa volta, giusto? Giusto. Ok. Quindi, come dicevo nel fuori onda, quando ci siamo sentiti per il check audio anche e video, conoscevo stavolta quasi tutte le canzoni, quindi mi fa un sacco piacere, perché così ho una critica un po' migliore, per modo di dire, e sono state fatte tutte molto bene, molto sinceramente. Vi seguo da tanti anni, come vi ho detto, da Honky Donkey, anzi addirittura prima con l'EP precedente, quindi è da mo' che vi conosco, quindi avervi informazioni complete mi fa ancora più che piacere. Parlando effettivamente dell'album, come mai avete scelto di coverizzare anche, oltre le canzoni della cultura italiana, vi siete messi a coverizzare, come con Vennero Fuori i Lupi, che era, prendevate spunto da And Out Come the Wolves, questa volta vi siete ispirati a Pump Up the Volume di NoFX, quindi vi chiedo anche se c'è qualcosa che state pensando per un'altra copertina. Bella domanda questa. Bella domanda. Se potete parlare. Abbiamo pensato alle cover intanto, cioè che faremo. Ok. Però le copertine ancora no. Comunque il perché facciamo così è perché chiaramente facciamo le cover delle cover, capito? La copertina. Quindi facciamo la cover della copertina pure. La cover al quadrato. Esatto. Anche perché, sì, vabbè. CD è quadrato. Ma questo no, è DC Quattro un po'. Ah, è D. No, vabbè. Quindi insomma, dai. Vai. Giusto per non metterci niente di originale, capito? Dice anche la copertina la coverizziamo. Dice ormai che si copia tutto, tanto vale, zero sbattimento. Esatto, è vero. No, vabbè, dai, adesso, ma quindi, no, infatti, la copertina deriva da Spacchiamoci le orecchie, che poi sul testo praticamente si ripete più volte, pompa il volume, dai, pompiamo di più, così, e quindi portava tutto e abbiamo deciso di fare quella copertina lì. Ah, ok, quindi è buttato un po' per meno sbattimento possibile, però fa riferimento comunque a un brano che avete messo dentro l'album. Esatto, esatto. Ah, ok. Dai, diciamo che sembrano tutte cazzate, un senso c'è sempre, come su Rimanere, esatto, fuori lupi, che l'abbiamo registrato praticamente sotto Covid e nel nostro paese sono arrivati davvero i lupi, capito? Quindi sì. Diciamo che c'è sempre uno spunto da cui partiamo e poi lo colleghiamo con cose che conosciamo della... Esatto. Poi l'intro di quel disco lì è uguale all'intro del disco dei Rancid. Sì, sì, è vero, era collegato anche con quello, quindi molto, esatto, molto bene. Quindi stavate dicendo che avete già scelto le canzoni per il prossimo album / EP? La prima domanda già ti sei imbrugata. Io sì. No, ma è lui sì, no, sì, va bene, guarda, tanto perché abbiamo già la scaletta per i prossimi sei anni, cioè, praticamente è uscito il disco ieri, l'altro ieri, la e prima intervista che facciamo del nuovo disco parliamo di quello dopo. No, ma è giusto, ovviamente non vi vado a chiedere quali canzoni avete scelto, perché ovviamente ne parleremo poi quando uscirete. Quante le dico? Bruciata, allora, anche qui. Come sempre sono con, come si dice, con una... Un filologico. Un filologico, esatto. Questo era gli anni 80, prima avevamo fatto gli anni 70, no? Questo qua, insomma, ci sono altri fili logici. Vabbè. Filo, grande filologico. Per me è logico, però è filo. Ah, no, vabbè, buono a sapersi. Infatti, prima di andarci a ascoltare un primo brano da pompa al volume, una domanda che avevo messo in scaletta, che mi è venuto un attimo così tanto da pensare, ho detto: effettivamente, avendo a disposizione una discografia infinita per quanto riguarda di cover, ho detto chissà se pensavano già a fare qualcos'altro oppure mantenere una costanza di un EP all'anno. Però effettivamente, da Vennero fuori lupi a questo è uscito, sono passati 4 anni e mezzo, però c'era quello di Natale, quindi mantenere, esatto, effettivamente qualcosa tutti gli anni, non ve la sentite? Ma prima non avevamo registrato, adesso che abbiamo registrato forse si può fare. No, è vero che le cover da fare sono tante, però è anche vero che vanno scelte bene, perché poi sì, ci sono state delle canzoni che non vengono, capito, col nostro stile, quindi sono, sì, cover, ma noi le facciamo come ci piace farle, quindi poi deve essere una canzone che risponde a quello che ci piace fare a noi, quindi, capito, non è proprio semplicissimo, non sono tutte coverizzabili. Ok. E comunque fanno figo, quindi immaginati, esatto, se poi le sceglievamo pure male. Quindi proprio un concorso di colpa lì proprio. Esatto. Bisogna limitare i danni in qualche modo, no? Esatto, limitiamo i danni di Francesco Salvi, no? È bello, limitiamo i danni, il nuovo disco si chiamerà. Già c'è un titolo, quindi piano piano si andrà a formare in puntata quello che farete tra 2 anni più o meno. A me piaceva Disco Orario, proprio. Bello. E rientriamo sempre con i Gomma Gomma a parlare di questo pompa il volume. Che succede? Mi sono perso qualcos'altro? No, niente, tutto nella norma. Tutto nella norma. Come vi dicevo, io sono volevo un attimo parlare anche del video. Io purtroppo sono un osservatore, per modo di dire, passatemi un attimo il termine, ascoltando tanti generi, comunque nel genere alternativo, punk rock ovviamente quello che ascolto per la maggior parte, però ascolto anche tanti altri generi. Io vorrei chiedervi semplicemente se anche questo discorso del video è stato un attimo preso spunto da un'altra band, perché io mi ricordo questa band che si chiamano Electric Callboy o Eskimo Callboy, come si chiamavano prima, col video di Pump It, che anche loro hanno fatto questo video un po' più ammiccante rispetto al vostro, perché il vostro è veramente divertente e molto ironico, però anche loro avevano buttato fuori questa roba. Quindi non c'erano le ragazze, non c'abbiamo le ragazze, non si poteva essere ammiccanti, potevamo essere ammiccanti anche noi. Esatto, no, alla fine il budget era limitato. Ma quindi vabbè, quindi va bene, alla fine era sì, ci ho preso. Siamo ispirati comunque. No. Certo, era giusto, era mio curiosità. Siamo ispirati a loro. Ok. Sì, sì. Poi, hai beccato, vabbè, proprio preciso. Infatti, perché, poi vabbè, c'era chiaramente l'immaginario, no, degli anni Ottanta con l'aerobica, quelle cose lì. Quindi esatto. Esatto, ti tornavo comunque effettivamente anche col discorso del disco, perché dici, richiamando gli anni Ottanta con la tutina un po' striminzita e il costumino un po' così, effettivamente l'anno era quello, quindi ispirazione, ma comunque filologico, cioè sembra tutto buttato al caso, come dicevamo, però effettivamente torna tutto. Sì. Cioè, diciamo che è buttato a caso, poi noi lo facciamo tornare, però. Ma perché dietro dietro ai Gomma Gomma c'è una grande mente, capito? Che è io. Aspetta, ah, è io che comanda tutto, i Gomma Gomma eseguono. Ah vabbè, allora quindi è bravo questo io a sto punto, perché se vi riesce a gestire tutte e quattro e buttare fuori delle idee sempre innovative o comunque correlate, fa il suo ottimo lavoro. Un'altra cosa, un'altra curiosità, dato avete utilizzato praticamente una palestra vera, perché ho visto che c'erano delle come ve la siete gestita? La palestra sua. Cioè io vado in palestra ogni volta, suono, ma loro non mi aprono. Stavolta ho suonato, mi hanno fatto entrare. E dice che ho gli amici dietro. Esatto. E ho portato questi amici e ho detto, ah, bello il vestito, però entra. E siamo entrati e abbiamo fatto il video. No, a parte gli scherzi, è una palestra del nostro paese, che si chiama Performance, che ci ha concesso l'utilizzo della palestra una domenica pomeriggio, e ti ringraziamo, siamo andati lì, insomma, abbiamo fatto questo video in una palestra vera perché ci piaceva farlo così. Abbiamo performato. Ah, ok. No, vabbè, ci sta effettivamente, perché sono quelle robe che effettivamente non sono mai scontate. Togliendo, c'era un altro video parlando, adesso non vorrei spoilerare qualcosa, che doveva uscire o è già uscito, non mi ricordo. È già uscito. E la canzone era, ricordami anche questo, perché ascoltando tante cose. Ok, questo non me lo sono visto, sinceramente me lo sono perso, quindi non so da dove avete preso spunto. Però lo so, mi dispiace, raga. Me l'aveva anche detto che sarebbe uscito il nuovo video, però me lo sono un attimo perso. Quindi ma questo era semplice, era voi che suonavate, basta. Esatto. Video con gente che suona. Esatto. Sì, però abbiamo mostrato per la prima volta i nostri nuovi amplificatori e batteria, che sono stati fatti da... Esatto. Che sono belli pelosi, anche quello, insomma, c'è un immaginario anni 80 molto belli. Sì, infatti, tra l'altro, la batteria, quella che ho visto nelle varie foto live che avete fatto a Grano Zero il weekend scorso, è quello effettivamente, tutto peluscione, tutto bello rosato. Sì, tutto bello rosato. Lì, sì. Ah, ok. Sì. Ma ci sono voluti 4 anni per fare il disco, perché 4 anni di depilazione per mettere da parte tutto il pelo da utilizzare e colorarlo anche, perché no, l'abbiamo colorato prima, quindi siamo andati in giro con quel pelo lì, poi l'abbiamo tolto per avere a disposizione più materiale possibile, giustamente per avere meno sbattimento possibile dopo. Vabbè, va bene. Quindi anche qui nulla da recriminare. Brevemente, pantomodo, per essere un po' più morbidi, esatto, alla fine esatto. Abbiamo un suono più caldo. Però d'estate poi come fai? Ti asciughi meglio, tiene il sudore, insomma. Vabbè, che quello c'ha, ecco, inventata la questione, no, va bene, adesso senza senza stare a tergiversare troppo. E adesso magari una domanda che vado spesso a chiedere, magari anche col discorso delle cover salta fuori ancora un po' più divertente magari, ma dei 10 brani che avete tirato fuori in questo album, qual è quello che avete detto, questo dobbiamo assolutamente fare, non c'è niente che tenga, anche se inizialmente magari potenzialmente non suonava benissimo, ma avete fatto in modo che suonasse bene, c'è qualcosa che va... Ognuno c'ha il suo, forte. Boh. Sì. Vabbè, sicuramente sì, Maledetta Primavera. Maledetta Primavera, perché è una canzone veramente difficile a livello di tempo, di metrica. Okay. E quindi forse quella è quella ci siamo stati di più sopra. Sì, ah, poi vabbè, una canzone conosciuta che ancora notiamo che la gente comunque canta in giro, quindi sì, ci piaceva, sì. Abbiamo detto facciamo anni 80, quella va, ci va messa per forza. Poi non so, forse ognuno c'ha la sua, per me era Alghero per esempio, Alghero doveva starci per forza. Ok, e invece per me? Domenico? Ah, quelle che volevo metterci io non sono finite sul disco. No, bannato proprio, dici. Che... Allora, dimmi... la 15. Non ho potere decisionale. Zero proprio. Ma una che volevi mettere qual era? No, mi ritengo soddisfatto di quelle che ci sono finite. Sognavo tanto gli Schiantos e ci sono finiti, ma naturalmente quella che volevo mettere non è quella che ci è finita, ma... Sarà nel prossimo. Compromesso. Sì, vediamo, vediamo. Ok, e invece per... Spacchiamo le orecchie. Non ho capito. Spacchiamoci le orecchie per me. Ah, ok, ok, ok, va bene, va bene. Quindi effettivamente ognuno aveva la propria, per fortuna, a parte Domenico che non è stato accontentato al 100%, però verrà accontentato nel prossimo disco. No. No, neanche nel prossimo disco. Basta gusti musicali. Cioè, considera che noi ci chiamiamo io e Gomma Gommas e lui è lui. Lui è lui, quindi proprio è un'altra cosa. È un po' come se fosse in prestito. Esatto. Io non ho tutta questa voglia di farmi vedere in giro con loro. Ok, quindi vediamo domenica, noi suoniamo di solito di venerdì e di sabato, capito? Questa è un'altra di quelle old school vecchiotte. E rientriamo per la seconda parte di Le Storm Rock, sempre collegato con la formazione al completo di Io e Gomma Gommas, dove ci stavamo un po' andando a parlare di questo nuovo disco. Pompa il volume. Pompa il volume, esatto, che cover al quadrato, perché c'è anche il discorso della copertina, che anche lì è stata presa da Pump the Volume dei NoFX. Quindi ne stavamo andando un po' a parlare e ascoltare, anche perché è uscito venerdì, questo 10 aprile, quindi se non lo siete ancora ascoltato, qualche brano ce l'ascolteremo qui in diretta. Tornando a un po' a tutto tondo su quello che riguarda un po' i Gomma Gommas, andando a cercare qualche informazione sul sito, perché tu metti caso che ci sia qualcosa che non sapevo, che ovviamente può capitare molto spesso. Fai tutto. Se, tutto no, è impossibile. No. Però mi sono visto questa vostra citazione, di cui ovviamente dicevate che i vostri brani sono stati usati spesso per pubblicità o programmi televisivi, quindi a tempo fa. Infatti uno me la ricordo, che era in un servizio di Studio Aperto e c'era Marina, questo me lo ricordo. Ma un passo più indietro, per i brani c'è qualcuno che vi viene a chiedere qualcosa, dice ragazzi so che siete una band, vi piacerebbe usare il vostro brano, ci date la possibilità, oppure chi se ne frega e lo scoprite direttamente? No, all'epoca quelli che sono stati presi non hanno chiesto niente, cioè no, non sapevamo neanche noi, ci hanno detto. Esatto, avevamo un'etichetta all'epoca e era stata informata solo, ma non è che gli è stato chiesto. Hanno detto guarda, passerà questo brano, anzi poi più di uno, perché poi sul lucignolo lo si è passato diverse volte. Però col fatto che non siamo noi autori, quindi non penso che... No, beh, era una mia curiosità, perché dici, non sapendo come funziona tutto questo discorso dietro, ho detto vabbè, avendoli in intervista, ce lo vado a chiedere giusto per curiosità mia. Sì, sì, no, comunque è vero. Ok, un'altra domanda riguardante effettivamente però i live. Oltre il release party che avete fatto a Lecco il weekend scorso, avete già qualche altra data fissata? In giro, oddio, no. Nessuno, non abbiamo più date. No, aspetta, adesso non ho capito se state scherzando o è... No, scherziamo. Ah, ok, c'è qualcosa. No, stanno arrivando, già abbiamo qualcosa programmato. Ok. E non l'abbiamo ancora spoilerate. Ok. Però tanto oggi abbiamo già detto che c'è il prossimo disco, già detto i titoli pure. Quindi possiamo anche dire le prossime date. Ma una più o meno qui in zona, qua in Bologna, da queste parti, c'è qualcosa? Firenze. Vabbè, Vabbè, uguale, stessa regione, stessa... però è un'ora, quindi... Sì. Centro Italia, dai. Dai, Firenze puoi farcela. 22 maggio a Firenze, dai, bello, è l'Ultravox. Ah, ok, adesso non penso di esserci mai stato, però... nel caso mi organizzerò nel caso a vedervi. È un weekend o è in settimana? Venerdì sera. Vabbè, è accettabile, è accettabile. Quindi banalmente più o meno fine settimana, no? Il venerdì ti rovini al massimo il venerdì sera, poi sabato e domenica stai tranquillo. No, raga, io l'ultima volta un'altra festa che... No, scusa. No, vai. No, dicevi un'altra festa. C'è un'altra festa che tengo a svelare. A spoilerare, vai pure. Se la sagra del Pinocchio. È vero, c'è la sagra del Pinocchio. Questa è dove sarebbe? Giugno. Dove sarebbe? Pergola. Vicino. Provincia di Pesaro. Ah, ok, va bene, hai fatto bene a spoilerare, quindi... Perché secondo me è carina. Sì, ci hanno detto che si parla della verdura, adesso. Cioè, la sagra del Pinocchio, noi con queste cose tutte rosa pensavamo che era un altro, invece ci hanno detto no, è la sagra della verdura, del Pinocchio. Bene, io chiudo qui un attimo perché sennò qua entriamo in discorsi pesissimi e dato che con i tempi che corrono meglio evitare qualsiasi riferimento, quindi... Vado avanti dicendo quando usciranno le date. Quando usciranno? Più o meno, quelle date quando è che tirerete fuori il calendario, più o meno. Non abbiamo ancora deciso, però in giorno, maggio, dai, a maggio. Verso maggio. Dai, va bene. E rientriamo sempre in collegamento con i gomma, si parla di pompa il volume. E vi stavo dicendo che effettivamente io l'ultima volta che avevo visto si passa veramente di tanti anni fa, perché era una volta, mi ricordo, avevi visto al Sottomarino quando faceva ancora i concerti a Marina di Ravenna. Ah sì. E un'altra volta vi ho visto al Vidia con i Not Available, anche qui si parla veramente tanti anni fa. Per quello speravo in questo giro avevate qualche data qui vicino. Adesso se ho qualche contatto, se ho qualche ce n'è una vicino a forse Bagno Polca. Non ho mai sentito. Sempre lì vicino, ma più su. No. Vabbè. Però è agosto. No, a luglio. A luglio. No, vabbè, dai, prima o poi anche come dicevamo anche queste qua. Sì, no, arriviamo. Prima o poi arriviamo. No, ok, con calma, anche queste qua usciranno. Parlando sempre, chiedendo un attimo in contatto questo discorso gomma se gimme Guinness, ironicamente parlando, immagino che saprete anche voi che da My First The Gimme Guinness sono passati a Spike in The Gimme Guinness, perché effettivamente è l'unico membro rimasto. Ironicamente anche voi avete pensato di spostare un nome, perché obiettivamente per mantenere ancora più viva questa fede che avete nei Gimme. No, sì, l'abbiamo fatto, l'unica cosa è che l'unica persona che conosciamo si chiama io. Quindi noi in realtà l'abbiamo fatto il cambio. Però si chiama ancora io e Gomma. Tu e Gomma. Però guarda, non sarebbe male tu e Gomma Gomma, perché obiettivamente Una volta è successo che eravamo a una rassegna, arriva il presentatore e dovevamo salire sul palco, presenta lui e i Gomma Gommas. Perché due secondi prima c'ero io, mi ha chiesto com'è che vi chiamate io e i Gomma Gommas. Ecco voi, lui e i Gomma Gommas. Fantastico, quei misunderstanding che effettivamente poi sono da raccontare, sono molto simpatici. E mi collego a questo sketch. Ci sono stati altri sketch carini che avete passato, che possa essere da live o delle prove? Sì, un milione sicuramente, però... Vabbè, intanto possiamo raccontare il primo concerto in assoluto che abbiamo fatto ormai 25 anni fa. Oh, bella! Abbiamo partecipato a un concorso, era la prima, proprio il secondo concerto. Ah, il secondo. Il primo lo ricordo perché il bassista si è scordato il basso a casa. Primo concerto in piazza Cavour, piazza principale di Ancona, andiamo a suonare e il bassista si era ascoltato il basso. Senza basso. Vabbè, e Invece il secondo siamo andati a suonare in un concorso, solo che invece di fare i pezzi che dovevamo fare abbiamo cominciato a cantare le osterie. E quindi insomma siamo stati squalificati dopo tre canzoni, ci hanno sbattuto fuori perché cantavamo l'osteria col pubblico e si era ubriacato davanti. Osteria numero uno, tutte quelle cose lì. Ah, fantastico. Invece di fare i vostri brani vi siete buttati la zappa sui piedi. Esatto. Ah, vabbè, dai. Non eravamo un gruppo da concorso comunque. No, assolutamente no. Abbiamo buttato subito in vacca per così. Esatto, per essere sicuri di non essere presi. Esatto. Dei brani che invece avete tirato fuori in questa scaletta di tutti i vari artisti italiani, c'è mai stato qualcuno, ovviamente parlando anche un attimo indietro, c'è mai stato qualche artista italiano che mi ha detto: oh, bello il vostro pezzo, mi piace la versione che avete tirato fuori? Sì, c'è stato qualcuno. Anche chi ci ha detto che faceva veramente schifo. È vero. Ah, e io sono stato molto positivo, effettivamente. Ho voluto mantenere solo la positività della domanda. Però effettivamente c'è il rovescio della medaglia. Edoardo Vianello ci ha detto che era orribile la versione di Guarda come Dondolo. Oh. E invece chi era? Invece Nada ha detto che Ma che freddo fa è stata la versione più bella che ha mai sentita. L'ha scritta, ci aveva mandato un messaggio. Sì, ci ha scritto proprio una mail. Il manager. Ma dai, bella sta cosa. Sì. Dai, buono sapere. Qualcun altro a sto punto? L'ultimo che... Dopo sono morti tutti. Morti tutti. Allora, quelli anni 30 sono quasi morti tutti. Vabbè, sì, effettivamente. Uno, da quello che so, c'era uno che era sul letto di morte, stava per dire: Igo, ma bellissima! È morto, però era... No. Non sapremo mai se... Le ultime parole io e gomma non è da tutti, eh. Sì, però non sappiamo se voleva dire: cazzo, mi hanno rovinato la carriera, oppure che bel brano. Vabbè, quello, non sapremo mai. Quello rimarrà un po' il dubbio. Ultima decina di minuti più o meno per in compagnia ancora dei Gomma Gommas, in formazione completa, e per andarci ad ascoltarci ancora appunto Pompa al Volume, che è uscito in questo weekend sia in versione vinile che CD. Parlavamo della versione del vinile, che avete fatto 30 copie, quante ne sono state, quante ne avete ancora? Così per chi ascolta magari sono... cioè, quindi solo io l'ho comprato. Sì, nemmeno noi l'abbiamo comprato. No, ne mancano una decina, mi sembra. Sì. Ah no, vabbè, almeno così rientrate della spesa del appunto del vinile. Allora, io mi ero segnato due cose che avevamo già detto bene o male un po' tutto. Quindi io direi che siamo quasi effettivamente arrivati addirittura d'arrivo, quindi parlando... Wow. Lo so, perché passa veramente in un attimo. Io avevo... mi ero segnato un sacco di cose, poi parlando ovviamente ne sono saltate fuori tante altre, e giustamente siamo arrivati tra qualche canzone... Ne facciamo un'altra. Se vuoi possiamo continuare solo su Instagram, perché sulla radio non posso, perché c'è un altro programma dopo. Se no chiediamo se quello dopo, dici, raga, se volete continuare. Dovremmo fare anche un'estrazione. Ah sì, è vero, adesso. Dopo, quindi possiamo continuare la diretta. Aspetta, estrazione di? Della scaletta. Della scaletta. Sì. CD e maglietta. Io non ho partecipato perché sapevo già tutto prima, quindi io sono stato onesto, ho detto no, lascio stare, perché ovviamente non mi sembra che... Io ho partecipato. Spero tu l'abbia presa, l'hai sbagliata. Ah, vabbè. No, a parte gli scherzi. Ragazzi, siamo effettivamente arrivati quasi addirittura d'arrivo, in modo da mettere l'ultimo brano, L'estate sta finendo, della vostra cover di Pompa al Volume. La mia ultima domanda, scarica barile, c'è qualcosa che non vi ho chiesto che vorreste dire? L'album? Io vorrei dire che L'estate sta finendo lo volevamo mettere a inizio estate come singolo, così per dare una botta di vita a chi si casa che arriva l'estate, così boom, subito. No, beccati questa. Bene, grazie. No, cosa volevamo dire? Niente. Dai, posto. Qualcosa che non ci va bene? No. No, è un po' tutto tondo effettivamente questa domanda, quindi il silenzio iniziale è canonico da tutti. Ma però non troppo silenzio, stiamo vivendo una situazione bellissima a livello globale. Più o meno. ci proviamo a divertirci, yeah, con la musica. Almeno, esatto, uno strappare un sorriso, yeah, qua là non fa effettivamente. Non fa effettivamente male. E io, ragazzi, vado effettivamente a salutarvi, a congedarvi, che così vi potete togliere la tutina, a parte Filippo che se l'è cucita effettivamente addosso. Ragazzi, appena usciranno le date, spero di riuscire a vedervi almeno in una, perché sono veramente tanti anni che non vi vedo da live e mi piacerebbe veramente vedervi. Poi è ora. Se ho qualche contatto che riesco ad avere di qualche locale qua in zona, vi passiamo a prendere noi. Esatto, raga, vi passate a prendere e andiamo a questo concerto, sì, insieme, perché sì, tanto esatto. Bologna, facciamo ancora Bologna, Firenze, qualche locale che dice lui ci può andare, se passiamo, sì, a prendere, ti portiamo. Ok, certo. anche dai, va bene, se no veniamo a casa tua. Veniamo a casa tua. Non sarebbe male, però momentaneamente è un po' piccola, quindi vediamo tutta la strumentazione. Poi non so i vicini come potrebbero reagire. Però se riuscirò mai a organizzare un concerto come mi piace, voi sarete sicuramente invitati, perché è impossibile che non vi veda da tantissimi anni. Comunque, dicevo, effettivamente, grazie alla disponibilità di essere stati tutti e quattro con me qui in questa oretta. E ci vediamo alla prossima. Grazie ancora e ciao, ragazzi. Grazie. Ciao a tutti. E io vado effettivamente a chiudere la puntata con il consueto buon punk rock a tutti.